Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Questa è la settimana santa, la settimana che Blue Radio Veneto dedica soprattutto alle le funzioni, insomma alle cose religiose. Questa settimana abbiamo pensato, questa serata così particolare, questa giovedì, di fare una trasmissione dedicata alla musica sacra. Però prima di tutto questo volevo presentare il mio collega ormai da tanto tempo. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Una settimana, un giovedì molto particolare e molto interessante. Sono molto emozionato io. Sì, anche noi. Prima siamo di tutto tutti perché emozionati, c'è lei così. Qui e, e poi anche perché insomma la serata sarà veramente molto ma molto emozionante. Abbiamo Sabato Rossi, la sua band, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima vi ricordo la nostra emittente Blue Radio Veneto, il nostro sito www.blueradioveneto.it ovviamente. Poi abbiamo le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blue Radio Veneto, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco. Vi ricordo anche i nostri numeri, quello telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri SMS vi ricordo è il 346 23 20 033. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che anche questo giovedì, dicevo, abbiamo pensato di fare un live, ma un live diverso dal solito, anche per rendere omaggio a questa artista padovana, una delle più belle voci soul di Padova, e non metterti... Si mette le mani davanti, è vero, sei una delle più belle voci soul di Padova, non abbiamo detto solo noi, l'hanno detto in tutti, in tanti, perdono. Abbiamo... Quindi... Saba De Rossi. Ciao Saba. Ciao a tutti. Ben arrivata a Blue Radio Veneto. Buonasera. Sai che sono più emozionato di te stasera. No, non credo. Sì. Come stai intanto? Bene, bene. Davvero, davvero tanto, tanto emozionata. Sono contento che tu sia qui. Da questa idea che è partita qualche mese fa, ti ricordi? Di farla questa serata così con la tua voce, ma soprattutto con il tuo percorso artistico, che è un concerto che stai portando in giro un po' dappertutto, insomma, dove ti chiamano a suonare questo tipo di musica un po' particolare. Eh sì. Cosa consiste questo? Ma è un viaggio, l'abbiamo definito il viaggio dell'anima, quindi abbiamo inizialmente, partendo dai brani, ho cercato dei brani che fossero di musica sacra, ma non eccessivamente vecchi come arrangiamento. Quindi abbiamo scoperto mano a mano questi pezzi riarrangiati, quindi diciamo che abbiamo trovato un lavoro in meno da fare. Principalmente l'idea è scattata ascoltando, per quel che mi riguarda, ascoltando Antonella Ruggiero. Sacra Armonia, praticamente. Sì. Che è un disco molto interessante, molto particolare. Molto bello, anche se molto Ruggiero l'anno scorso ha fatto un disco di Natale, sì. Che si è un po' allontanata da questo discorso, ha fatto un disco prettamente natalizio, mentre Sacra Armonia allarga l'orizzonte della musica sacra internazionale, possiamo dire. Questo cosa dice? Lei nel suo CD ha ripercorso... ha fatto un viaggio attraverso canzoni di vari paesi. Di vari paesi. Quindi ha preso canzoni popolari anche come Guantanamera. Certo. Che noi non abbiamo ritenuto il caso di inserire. Di proporre stasera. Esatto. Abbiamo quindi cercato canzoni che fossero anche solo di ispirazione, ma che fossero vicine alla nostra tradizione cattolica. Certo. Io quando ho sentito il Kyrie nel 2003, l'ho sentita in occasione di una Jubil Music a cui ho partecipato... Mi si è spalancato il portone, esatto, ho detto voglio fare anch'io questa cosa. Ecco, hai fatto bene. E l'ho copiata. No, non l'hai copiata, l'hai mediata. Ho preso l'ispirazione. Sei ispirata al Kyrie, che è un pezzo tradizionale africano che Antonella Ruggiero ha ripreso, ha rivisitato con le sue corde, grazie anche agli arrangiamenti di suo marito, che è un grande, Roberto Colombo, che è un grandissimo arrangiatore e musicista. Che poi è stato gentilissimo perché mi ha inviato tutte le partiture. Ecco, vedi, questo non lo sapevo, è una notizia che mi fa molto piacere. Roberto Colombo, tra parentesi, chiudiamo la parentesi, la sigla di Stereo Notte, mitico programma Rai, è scritta da Roberto Colombo e ha 30 anni, quindi bellissimo. Grande ammirazione per Antonella Ruggiero, perché insomma... A partire dai Mattia Bazar, insomma, poche le persone che riescono a raggiungere l'intensità, la bellezza vocale, la pulizia vocale che ha lei. Esattamente, poche le persone che riescono a fare un percorso così difficile, così complesso, così non, assolutamente non commerciale, sì. Questo è importante. Mi è piaciuta poi anche questa cosa che lei ha dopo aver lasciato i Mattia Bazar, ha intrapreso tutto questo percorso spirituale suo. Questa ricerca proprio, vera e propria. Esatto, lei è stata via per qualche anno sì. dall'Italia, certo. È rimasta in India per qualche anno e poi è ritornata con questa grande fantasia, con questi grandi CD che poi insomma ci ha fatto conoscere. Questo in particolare io l'ho scoperto un po' alla volta, perché non sono neanche poi canzoni così semplici. No, assolutamente no, vero Agostino, sono molto complesse. Sì, beh, lei di per sé sì. è una persona un po', diciamo, fuori dagli schemi, se sì. si può usare un termine così, insomma, non molto radiofonico ovviamente, però insomma lei è molto particolare, come innanzitutto come voce. E io l'ho sentita anche nella canzone che ha cantato nel disco di Jacopetti, è sempre una canzone un po' strana, insomma, lei cioè, cura sempre questi aspetti un po' diversi dalla diciamo, normalità, tra virgolette, sì. insomma, se mi passi questa espressione. Lei comunque ha una voce pazzesca, lei è una forse delle più belle voci italiane. Sai che quando io ho detto che c'era questa trasmissione questa sera, più di qualcuno... Beh, tu senti Antonella Ruggiero? Senti Sabato Rossi? È la stessa cosa. Sì. Davvero, sai, più di qualcuno me l'ha detto, hai una voce pazzesca, come Antonella Ruggiero. Dovresti essere fiera. Antonella cioè. Ruggiero dei poveri. Non abbiamo ancora presentato però gli altri componenti della band, che questa sera ovviamente Sabato Rossi non poteva farceli mancare. Manca solamente il chitarrista, ma ovviamente essendo oggi Giovedì Santo, la serata dedicata alla Valda dei Piedi, eccetera, eccetera, anche lui fa parte di queste celebrazioni, quindi appena avranno finito lui sarà qui ospite assieme al resto della band. Però comunque abbiamo al pianoforte, abbiamo Sergio Busò. Ciao Sergio. Ciao a tutti. Alla chitarra acustica appunto Alessandro Modenese, che arriva tra un'oretta circa. Poi abbiamo le percussioni, il mitico percussionista dei Summertime e non solo, cioè Paolo Vidaic. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Paolo. Ciao. E poi abbiamo un amico che conosco dall'infanzia, siamo cresciuti quasi insieme, vero Alessandro? Sì, sì, buonasera. Alessandro Papalardo, e ne approfitto per salutare anche Massimo, se mi permetti Alessandro, va bene? Sì, sì, salutalo pure, te lo concedo. Grazie. Allora, io direi, Saba, se tu sei pronta, direi di rompere subito il ghiaccio, come si suol dire, così ti rilassi un po' anche te, emozioni. è già andata via l'emozione adesso, Saba. No, deve ancora... Beh, abbiamo una fotografa stasera, quindi piano sta arrivando che praticamente prende tutti i flash, esatto. I momenti emozionati, non solo del programma. E Betty, stasera abbiamo la Betty come fotografa. E poi se la ride, poi lei, se la ride. Ci sei trovato un'amica, ti abbiamo fatto un regalo questa sera, hai visto? Dobbiamo salutare anche Michele, che fa parte... Michele, è ritornato ieri alla grande e anche stasera vuole partecipare. Ciao Michele, grazie per essere qui questa sera. Allora, cosa ci fai ascoltare adesso, Sara? Partiamo col primo canto, la prima canzone che facciamo anche durante il concerto. Sì? Quindi è la canzone che ufficialmente apre il nostro concerto. E si chiama? Dal titolo Corale Cantico. Ok. Pace e ristoro per l'anima mia. Oh, oh, oh, lontano da qui. Oh, oh, oh, cerco lungo i viali di un unico cielo. Gente che mi vive accanto. essere senza vento come un richiamo. Cerco nel silenzio di un unico cielo. Parole, se posso dire una cosa, l'inizio della Sacra Armonia non ha niente a invidiare al tuo inizio, ti preoccupare, loro iniziano, cioè Antonella cominciava così, tu hai cominciato così e non sei assolutamente inferiore dal punto di vista musicale. Ma sei stata bravissima. Grazie. E infatti loro mi dicevano, sentire Antonella, sentire Saba è la stessa identica cosa. Sei stata bravissima, un pezzo molto difficile, un inizio difficile, perché complesso, il disco Sacra Armonia è complesso, e anche il progetto tuo, Incanto di un viaggio di un'anima, progetto complesso, nato con la collaborazione di chi, Saba? Del buon Don Marco Sanavia. Esattamente. È stato lui, l'ispiratore è stato lui, perché a Jubil Music mi ha preso per manina, mi ha portato dalla Ruggero e mi ha detto salutala. Così ti ha detto. I bambini che vedono. E quindi, vabbè, coraggio a piene mani, sono andata lì, l'ho salutata, lei è una signora, mm-hmm. È proprio una signora. E da lì mi ha detto, Don Marco, ma sai che potresti però pensare di fare qualcosa, tu che sei sempre stata vicina all'ambito della chiesa, della musica comunque di ispirazione cristiana? E ci ho messo un po', A capire, dal cioè, 2003 al 2010 ci ho messo un po', ma insomma... Però sei arrivata. Ce l'ho fatta. Esattamente. Ce l'abbiamo fatta. È un grande grazie lo devo a Don Marco, perché è stato lui a darmi proprio il treno, praticamente. Sì, sì, sì, la spinta è stata la sua. Giusta. Poi fatto il primo grande concerto, quello che abbiamo fatto a Monteortone nel 2010, ho preso coraggio, ho detto... Hai sdoganato tutto. Andata. Via, via, andata. Adesso andata. Si va. Hai sdoganato anche stasera, 21:17, in perfetta diretta, quindi grazie anche ai nostri musicisti, al nostro tastierista e al nostro percussionista che hanno dato una colorazione particolare. Dobbiamo dire che è difficile in live, in radio, acustico, senza una strumentazione un po' più corposa. Sei stata bravissima, c'è niente. Grazie. Ma si è preparata. Eh beh, certo, si è preparata. Dopo la pressione che ho fatto io, chiaramente si è preparata, assolutamente. Sei un po' più rilassata adesso. Pochino. Un bel pochino. Allora ti faccio subito una domanda marzulliana, come dicono sempre. Chi è Saba De Rossi? Bella domanda. Al momento è una persona un po' confusa sulla sua identità, però comunque è una persona che da sempre ama la musica, ama il canto. Io da che ricordo... mi ricordo che cantavo tutte le pubblicità, sapevo tutte le canzoni, ero l'unica bambina dell'asilo che sapeva fare il Iolele Idi di Heidi in modo perfetto. Quella è già una caratteristica, non da poco. È già qui il virtuosismo. Anche Michele, dice di sì, anche Michele che ti conosce. Eh sì, lui è stato una presenza non indifferente qualche anno fa. Allora continua, sei partita da piccolina. Sì, sì, sì. passione da sempre, da che io ricordo veramente era per me più facile cantare che parlare, tuttora comunque sono più agitata perché devo parlare, non perché devo cantare. E poi c'è chi, come il buon Alessandro Modenese, mi prende in giro, anche il buon Alessandro Pappalardo, che è qui presente, che non perde, esatto. Esattamente, proprio seduto zitto, e sta guardando, esattamente. Non perdono occasione per prendermi in giro perché ci sono degli aneddoti divertenti che magari poi in seguito... Sì, abbiamo tempo fino alle 11:30 e poi dirli chiaramente gli aneddoti. Ecco, comunque, la tua carriera come da dove è partita praticamente? Tu sei partita con il Summertime o prima? Prima ho iniziato a cantare nel coro della parrocchia come tanti, avevo 14-13 anni. E lì era appena arrivato Don Paolo, quindi lo storico coro di Limena, quello che poi è diventato il coro Vox nei famosi CD di Don Paolo, è nato proprio lì. Infatti il primo CD ho dovuto fare il permesso dai genitori. Dai genitori. Esattamente, perché non avevi ancora 18 anni. 17 anni. Avevi 17 anni. Ecco, quindi è partito da lì, poi l'ambizione, visto che ero troppo piccolina, Don Paolo mi teneva... a bada, no? Perché aveva capito che, che volevo emergere. E poi in seguito mi ha detto che non era ancora il momento. Poi il momento e io invece da sola poi ho continuato. E la prima uscita ufficiale l'ho fatta a 17 anni. Quindi mamma e papà non volevano lasciarmi andare. Sei andata lo stesso. Ho trovato il modo di andare, avevo la mia chitarra acustica. E ho cantato ad una serata di beneficenza al teatro di Sarmeola, sì, dell'Opsa. E lì tra una band e l'altra, io mi ricordo che non so se era prima o dopo di me, c'era una band che cantava Jump dei Van Halen. Ah, di Van Halen. Io ho cantato a un orario assurdo, tipo alle 11:15. E sono uscita con la chitarra neanche amplificata, proprio col microfono come si faceva una volta, e mi sono messa lì da sola a cantare Talking About Revolution di Tracy perfetto, Chapman. Tracy Chapman. Chi si ricorda degli esordi si ricorda di Tracy Chapman. E lì è stato... un'ovazione. Sì. So che Alessandro ha questa registrazione, non me la vuole dare. un cimelio che si tiene lui. Sì, proprio una perla. Ecco, e da lì poi è partito un po' tutto quanto perché... evidentemente insomma mi sono fatta notare in qualche modo, se non un altro perché ero tra delle band di metal belle cariche. Belle cariche, sì. Totalmente. Poi hai fatto anche dei musical, molto musical. Sì, poi con gli anni, sì. Il primo è stato Il Forza Venite Gente. Il Forza Venite Gente, esatto, sì. Sì, dove con tutti gli amici Borgoricco di Villanova. Facevi Santa Chiara. Santa Chiara. Marco Argenti, che forse qualcuno di voi conosce, no? No, io no. È stato lo storico San Francesco, attualmente invece si dà alle tribute di Vasco. Poi tanto Spirit in Dance hai fatto, tantissimo. Molti anni di Spirit in Dance col buon Michele, che è qui presente, che mi sava i nostri pezzi. Esattamente. Mi ha fatto il disco. E poi hai fatto un altro musical che mi piace tanto. E il musical più bello che è stato Jesus Christ Superstar. Cosa faccio? Eccola qua. È di questa tu? No, magari. Però quando gliela cantavi a Vittorio Matteucci era questa, giusto? Eh sì. Era lui il Gesù Cristo? No, lui era Giuda. Era Giuda? Ah, non lo sapevo. Pino Pinato nelle vesti di Gesù Cristo. Beh, che aveva aveva l'abito rosso, era Nino Scolari, era stato Era convinto che fosse Gesù. No, era più nel personaggio con Giuda. Certo. Sì, visto anche l'aspetto. E poi Cocciante ce l'ha rubato, abbiamo perso il Giuda. Esattamente. Si è concluso il musical. Ha fatto Frollo poi, insomma. Poi ha fatto Frollo, poi ha fatto Dante. L'avremo prossimamente qui, sai, Vittorio Matteucci. Ci sarà? Sì, l'avevo già. Adesso sta facendo qualcosina di suo, però poi... finalmente, infatti in tanti si chiedevano quando sarebbe arrivato questo momento. Adesso però è arrivato il momento tuo. Certo. Cosa ci aspetta adesso? Cosa ci aspetta? Vuoi mettere su un pezzo da disco oppure facciamo un altro? No, farei una delle canzoni che mi emozionano di più in assoluto, sempre tratta da Sacra Armonia, che è Lo Frate Sole. Quello è un pezzo molto interessante perché ha una origine il discorso di San Francesco e quindi il Cantico dei Cantici. E poi, sì. Bella, ascoltiamo, poi magari ne parliamo. Mi sto già emozionando. No, va bene. Sei pronta? Sì. Nostro. Bravissima. Poi questo è un pezzo antichissimo del 1226, dicono alcuni, in umbro, cioè in dialetto umbro di quel tempo praticamente. È stato, è una cosa meravigliosa. Bellissimo. E per la storia, l'immagine del santo uomo di San Francesco praticamente, un pezzo meraviglioso, un pezzo mitico, proprio la descrizione di questo personaggio stratosferico, come lui non ce ne sono stati più. No. Scusa Gesù Cristo, chiaramente, come lui non ce ne sono stati più, straordinari. E poi Antonella è riuscita con grandissima sobrietà e con grandissima... Loffrate, cioè già pratica, Loffrate, cioè, già l'identificazione dell'uomo, ma frate, cioè di uomo religioso, sì. È una cosa bellissima. È senza parole? Sì, sì, io dopo questa canzone qua sono sempre un po'... Allora ti faccio già un ti leggo già un messaggio. È arrivato un messaggio da una signora di Bologna, si chiama Luisa, e dice: ciao Ago, dolcissima questa cantante, una voce angelica, complimenti con tutto il cuore. Grazie. Si chiama Luisa. Ciao Luisa, grazie. Ecco. Allora, questa è Blu Radio Veneto. Come dicevo prima, io veramente mi sento molto emozionato questa sera, perché il tema è molto particolare. Lei è bravissima, quindi tocca veramente, come diceva Maurizio nella nostra recensione, tocca veramente il proprio intimo, il proprio punto interno del nostro essere. Questa è, dicevo, Blu Radio Veneto, la vostra emittente, con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Saba De Rossi e la sua band, che ci è venuta a regalare questa serata in onore alla sua, come dire, la sua musica, il suo progetto che porta in giro, insomma, è soprattutto una serata dedicata alla musica sacra. Non per essere presuntuosi, ma credo che siamo l'unica radio che questa sera, in questo preciso momento, sta facendo questo tipo di musica. Sono d'accordo con te. Noi abbiamo scritto questo Saba, mediando dalle tue parole, e l'emozione, la sensazione che di chi ascolta, perché arrivare all'anima, al cuore, devi, entri dentro, questo è importante, le sensazioni che dai, entri dentro, non così di facciata, proprio dentro. E quello è il significato di un progetto simile, a mio parere. Eh sì, io non posso magari vantare la freddezza che hanno molti cantanti, anzi io Non sei fredda, chiaramente, no, quando canti. No, dai, l'emozione è sempre troppo, troppo. Ma l'emozione è giusta, secondo è me, quando si canta. Sì, però a volte è troppo. È talmente troppo, tanta che tendo ad essere imperfetta. Ho capito. O non perfetta, come vorrei. Però credo anche che la capacità di fare arrivare un messaggio come un questo. Un messaggio, o comunque una sensazione, ritengo che sia ancora più fondamentale, ancora più importante. Del pezzo di se stesso, praticamente. Che sono perfettamente d'accordo. A Seriva, il nostro percussionista a Seriva, quando tu dicevi le parole, lui a Seriva, assolutamente, perché era perfettamente d'accordo. Anche gli altri, ma lui più degli altri, mi pareva. Non posso nascondere il piacere di riavere Paolo, perché insomma io ho condiviso con lui i miei momenti dei summertime e erano un bel po' di anni che non... Avvicinati al microfono, Paolo. Un bel po'. Per cortesia. Erano begli anni, e poi ci siamo un po' persi di vista, e poi ci siamo ritrovati in questo progetto qui, che è bello. Cioè, è anche per uno che suona le percussioni, è anche una bella sfida, perché qui devi giocare con un linguaggio, devi parlare con un linguaggio completamente diverso da quello che usualmente si trova. Intanto, questi arrangiamenti, la sua voce... Certo. È tutto intriso di eleganza, e quindi tu devi, io devo adeguarmi. Ci devi seguirla praticamente. Devi seguire questa eleganza, e quindi certo, devo usare degli strumenti, delle idee che... non devono appesantire. No, assolutamente. Chiaramente. E quindi, per esempio, gioco molto sul minimo, sui silenzi. Certo, è vero. Che si adeguano perfettamente in questo contesto qui. Quindi, oltre al piacere di suonare dal punto di vista proprio personale, di amicizia, con la Sava, con Sergio, con Alessandro, con l'altro Alessandro, anche dal punto di vista musicale, prettamente musicale, è una bella avventura questa. Beh, una bella sfida, è una bella sfida, certo. E ti arricchisce tanto. Ti arricchisce tanto sia intimamente e poi anche dal punto di vista proprio prettamente musicale, professionale, di crescita proprio musicale. Certo. Quindi sono ben contento di essere qua. No, non avevo mai sentito tutte queste cose. Vedi, è la radio che scioglie quindi le cose. La radio fatta. Mi sto riscaldando, cioè, proprio. Parliamo un momento anche col tastierista, che è fondamentale, anche lui. Sergio. Sì. Come entri nel progetto della Saba, almeno stasera, che hai suonato in questo momento? Beh, ormai sono a un livello, diciamo, di coinvolgimento abbastanza alto. Sì. La cosa non è iniziata così, nel senso che anche all'epoca delle prime proposte di Saba io ho accettato di collaborare con lei per fare una nuova esperienza, però non era una cosa che sentivo, diciamo, sentivo mia. Poi è una cosa che, senza che me ne accorgessi, è nata poco a poco, e secondo me queste, in senso, diciamo, buono, sì, sono le cose più pericolose, perché proprio quelle cose che ti si radicano dentro senza che neanche te ne accorgi, alla fin fine ti prendono e poi diventano tue non soltanto del compito che tu hai come musicista, ma anche tue come, a livello, diciamo, interiore, a livello emozionale, emozionale di persona. Certo. Quindi io ormai, è stato un percorso lento, però diciamo sempre in aumento, e adesso sono arrivato, diciamo, a questo livello che ormai è un progetto che sento mio, come lo sente, mi accomuno, diciamo, a Saba, a Paolo, certo, ai due Alessandri. Ormai siamo, anche da questo punto di vista, una famiglia. Ma Sergio, toglimi una curiosità: quando voi siete in concerto davanti al pubblico, siete emozionati anche voi come sono gli ascoltatori che vi stanno guardando, sentendo? Direi per fortuna di sì, nel senso che l'emozione può giocare qualche brutto scherzo, però è sempre quella che ti dà l'anima, che devi sempre avere quando fai musica. Quindi direi, posso rispondere tranquillamente di sì. No, perché visto il tipo di musica un po' particolare, un po', come diceva Maurizio, intima, insomma, è facile, credo, emozionarsi anche per voi stessi, insomma. Se poi siete persone sensibili, ancora di più. Io ritengo che come musicisti lo siamo proprio. Fa parte proprio dell'anima di chi fa musica essere particolarmente sensibile. Lo siamo, diciamo, in prova. Poi tante volte questa emozione si perde perché, presi da mille cose, fra il correggere di qua, l'ho sbagliato di là, e si potrebbe modificare questo o annullare quell'altro, non te ne rendi conto. Il tutto però viene fuori al momento opportuno, che è quello dell'esibizione. All'esibizione, diciamo, viene proprio fuori quell'emozione del giusto grado che ti deve prendere per portare allo spettatore tutto quello che stai sentendo tu dal tuo interno. Certo. Aggiungo solo una roba che mi ha lo spunto di Sergio. In realtà nelle prove si formano delle alchimie particolari, nel senso che la cosa bella anche che abbiamo noi, che abbiamo capito tutti esattamente lo spirito di dove dobbiamo andare. E questa cosa qui, ogni tanto nascono di quei gioiellini di arrangiamenti, lì ci si emoziona, forse io lì mi emoziono di più, perché vedi che è una cosa che è assolutamente imprevista, assolutamente impreparata, però nasce quel gioiellino che si incastona perfettamente nella sua voce, nella sua canzone, e quindi lì dice, sì, allora lì, vedi, cioè, vale la pena continuare, vale la pena proseguire certo. In questa strada, certo. Perché lì è il segnale vero che c'è qualcosa di speciale dato dall'unione di noi. Quindi a me più l'emozione dei concerti, che devo stare lì a trabaccare con tutti i miei giocattoli. Tutti i giocattoli. E che non farlo muore, che non casino. Così io mi emoziono di più nelle quando prove. Nascono queste giornate. Ma l'emozione c'è anche questa sera, anche se non siamo in una chiesa, un luogo ideale per fare un concerto simile. Siamo nella nostra chiesa di Blu Radio Veneto. Guarda, sicuramente si sente meglio che in chiesa stasera. Sì, sì, sì. Credo che sia la prima volta che riusciamo a sentirci perfettamente. Meglio così. Okay. Invece, Alessandro, tu invece che avvicinati al microfono, Alessandro, dai. Che ne pensi? Cioè, ti emozioni? Come la vivi questa avventura così, diciamo, tra virgolette, diversa, insomma, rispetto a una musica normale? Ma io mi emoziono tantissimo. Sono stato chiamato da Sava perché aveva bisogno di una voce maschile e di una voce narrante, per cui mi ha chiamato e io ho detto di sì subito praticamente. Beh, all'inizio in realtà ero un po' scettico perché è difficile per me riuscire ad entrare in un progetto, diciamo, sacro, perché sono abbastanza faccio abbastanza fatica a farmi coinvolgere. Però poi, insomma, quando ho saputo, insomma, quali erano i pezzi e come si svolgeva la cosa, allora ho detto sì, ok, vengo. Poi Sergio lo conosco da una vita, Paolo lo conosco da una vita, Saba lo conosco da una vita, Modenese lo conosco da una vita. Quante vite hai, scusa? Ho 4 vite, praticamente. 5 vite. Saba che proviene dal metal, tu provieni in qualche altro genere, chiaramente. Ma lei proviene dal metal, l'ha detto prima, quindi è arrivata al sacro, è una cosa molto bella, secondo me. Sì, sì, no, poi diciamo anche che, insomma, sono tutti amici, per cui certo. È stato più facile, insomma, dire di sì. Scendiamo da Bologna a Roma, Saba, c'è Roberta che ti saluta e ti fa i complimenti, insomma, perché gli piace. Grazie Roberta. È stata qui la settimana scorsa comunque, è la manager, la produttrice di Elena, una band di Roma che è venuta a trovarci la settimana allora scorsa. Allora doppiamente grazie. Quindi lei sa la tua situazione. Tutto bene. Grazie. Allora, sei già pronta? Facciamo ascoltare qualcosina, perché la serata è... Sì. Avete un repertorio vastissimo, cioè nel senso, per questa serata avete una serata piena di canzoni. Sì, praticamente vi facciamo tutto il concerto, tutta la scaletta. Bello, perché bello. Il tempo c'è, quindi... Non l'abbiamo ancora detto che questa sera eccezionalmente non si finisce alle 22.30, già, anzi già vi ricordo che non c'è Alberto Prisco dopo con la sua classifica di musica rock. Ma ci sarà Agostino e Maurizio assieme a Saba e la sua band fino alle 23.30. Circa 23.29, ecco. Avete capito bene? 29. Fino alle 23.29, quindi avete la possibilità di registrarvi questa trasmissione e di registrarvi le bellezze vocali, posso usare questo termine, di sì, Saba. Grazie, sì. Allora ci fai ascoltare. Allora, proporremo, maestro Sergio, che sto saltando un po' di palo in frasca perché cercavamo di rispettare una scaletta, ma visto che si parlava di particolari alchimie, ho pensato di proporre The Water is Wide. Ah, adesso parliamo un momento di questo pezzo. Esatto. Che è un pezzo che tu canti una parte in inglese, non tutta praticamente. Sì, l'idea è successo questo. Dimmi come è successo. A dicembre abbiamo fatto un concerto a Limena e avevamo un repertorio che era un po' spoglio, nel senso che l'ultimo concerto che avevamo fatto continuavano a chiederci il bis. Certo. E praticamente stavamo ripetendo un altro concerto. Abbiamo pensato di aggiungere qualche brano. E sempre su suggerimento del buon Don Marco Sanavio, abbiamo aggiunto tre pezzi che mano a mano faremo sentire. Uno è questo, Water is Wide, che noi conosciamo come È giunta l'ora. Sì. Anche se è un'origine un po' antica, praticamente. È molto antica. 1600, perché, esatto. Sì, io ho fatto delle ricerche. Praticamente un canto popolare, una traditional, possiamo dirla così, sì, che il ricercatore inglese famoso Child ha proposto come numero di catalogo 204. Dovete sapere che Child, che era un ricercatore inglese, catalogava i pezzi, le ballad, le classiche ballad folk, con un numero di catalogo. E del 1600 l'hanno ripreso tanta gente, con testi differenti. James Taylor, la Bonhoff, la Joan Baez, la Eva Cassidy. Ecco, tutti avvicini al testo di Eva Cassidy, leggermente, in inglese, leggermente. Io ho scovato questa versione su YouTube. Sì, perfetto. Ed era la più celtica, la più irlandese che ho trovato, perché c'era una vastità di versioni, esattamente. Abbiamo proprio voluto riportarla all'origine, a così come è nata e a così poi alla fine come noi la conosciamo qui in Italia. Certamente. Ecco, poi si è sentito di tutto. Sì, io sì, certamente. Ho io sono fatto Neil Young fare questa versione. Sì, anche Neil Young. James Taylor. Sì, James Taylor, chiaramente. E quindi è stata una bella avventura. Sì, anche è una canzone popolare al 100%, l'hanno cantata tutti, tantissima gente, e tantissime, come abbiamo detto prima, con versioni differenti, con un modus diverso di fare. Adesso la sentiamo la versione di Sabato Rossi, chiaramente. per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e figlio tuo Cristo Gesù. La stavo cantando anch'io in italiano. Bravo, bravo. Specie quando l'hai fatta alla fine, io e anche la Betty ci siamo messi a cantarla, perché veramente... Dobbiamo sottolineare l'arpeggio e la costruzione alle tastiere del maestro Sergio, è stato straordinario. Grazie. Allora, sono alle 21.45, questa è la vostra emittente, cioè Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, Maurizio e soprattutto Saba. Come mai hai scelto queste canzoni, questi titoli di canzoni per il tuo concerto, il tuo percorso? C'è un motivo particolare o è casuale la scelta, Saba? No, inizialmente, ti dico la verità, è stata una necessità il mettere insieme un concerto, perché ovviamente queste cose nascono 15 giorni prima per il giorno dopo. e in effetti è stata abbastanza così. Preso un po' i pezzi dalla Ruggero, sapevo, grazie anche a Betty che mi ha fornito il materiale, alcuni brani da Tosca, che ammiro moltissimo perché ho sentito anche l'anno scorso in occasione della festa della comunicazione, sì, a Padova, ha una voce meravigliosa e conoscevo di qua e di là, abbiamo messo insieme questi brani, poi piano piano abbiamo capito come strutturare il concerto e quindi ogni volta si sistemava qualcosa, si toglieva qualcos'altro. Inizialmente avevamo inserito anche Ballada d'Ossino, mm-hmm, tratto sempre da Sacra Armonia, poi abbiamo pensato di toglierlo, anche se per me era un piacere cantare quel brano. Abbiamo preferito inserire altri brani magari molto più legati alla nostra tradizione. Questo principalmente il motivo. Poi alcuni brani, perché io già li conoscevo e avrei tanto voluto cantarli a modo mio, a fare anch'io la mia versione di questo brano, come è stato The Water is Wide. Poi grazie a tutti i vari maestri, certo, che ci sono qua con me, abbiamo ottenuto questo risultato. Ti devo dire, la sfida più grande è stato il Magnificat che faremo. Sì, che è cantato da Mina. Che è stato cantato terra. Da me, esatto. Quella non è stata una. È sempre una scommessa. Avvicinarsi a Mila, Mina è un qua sghignazzano già perché. Sì, ma tu ti sei avvicinata recentemente a Mina e a Battisti, mi pare. Sì. In un concerto che hai fatto proprio di recente. È stata un'esperienza molto positiva anche qui. È stata una seratona, sì. Un'emozione grande perché da tanto non vedevo un palco. Ecco. E soprattutto non avevo mai visto l'auditorium del Pollini, quindi è stata... E poi io che mi emoziono sempre molto poco. Mi è salito il sangue. Però vuol dire che eri nel feeling giusto, nella condizione giusta per poter emozionare chi ti ascoltava, sì, quella sera. Ma poi a un certo punto mi è bastato guardare la faccia di Alessandro Modenese, che mi accompagnava alla chitarra. Quando ho visto lui ho detto ok, allora va tutto bene, posso continuare. Perché Dalla Terra di Mina, un disco molto difficile, molto complesso, che Mina, proprio una ricerca che ha fatto lei all'epoca per fare queste arie sacre. Perché? Proprio perché è Mina. Beh, il Magnificat è maestoso come, sì, brano, e quindi era un finale perfetto per il nostro concerto. Certo, certo. Non ho osato prendere altri brani, credo di aver preso quello più accessibile, più... Il più potente. Più potente, ecco, non accessibile, più potente. C'erano altri brani che ci sarebbe piaciuto inserire, ma si avvicinavano già abbastanza a quello che già facevamo. Quindi magari ne aggiungeremo più avanti, toglieremo qualcos'altro. Che ha fatto proprio una ricerca, Mina, quando ha fatto questo disco, ha ricercato degli esperti proprio di musica sacra per farlo. Si è stato prodotto sempre dal suo figlio, però la ricerca è stata molto particolare. Non è un disco semplice, è un disco forse uno dei dischi più ostici dal punto di vista anche di ascolto, è complesso, molto complesso. Poi, come spesso succede, Mina viene anche mal interpretata. Sì. posso essere d'accordo. In questo CD ho sentito molte critiche negative, sì, vero? Sì. Esattamente, perché si è avvicinata a delle cose un po' particolari da toccare, anche se c'era la voce di Mina. Nonostante il disco abbia venduto molto, perché è arrivato a 150.000 copie all'epoca, quindi secondo me è bellissimo. È un disco bellissimo, molto interessante, anche dal punto di vista poi commerciale. Lei ha una vocalità così, cioè, così. Assolutamente, la vocalità di Mina non ha paragoni. Esatto. Non ha paragoni, è Mina e basta. C'è poco da fare. Infatti non ho osato fare altro se non il Magnificat. Ecco. Già... Ma potevi tentare fare qualche altro pezzo per quello. Ma sì, magari. Beh, avrai tempo di pensarci sicuramente, sì, perché i pezzi sono, non c'è solo Magnificat, ci sono altre cose, eh sì, interessanti. Eh sì, perché ci dicono che questo concerto dura ancora troppo poco, quindi ecco, dobbiamo dobbiamo allargarlo, dobbiamo incorporare, mettere dentro qualcos'altro, mettere in cantiere qualcos'altro. Vuoi che ti riposi un pochino? Vuoi riposarti un po'? Sì, volevo proporvi un paternoster che è così, insomma, passiamo da Sacra Armonia a Musica Celi, che è il CD cantato da Tosca. Da Tosca, sì. Il Paternoster. E questa è una registrazione? È una registrazione. Fatta ancora tempo fa, in una chiesa? No. No? Dove l'hai fatta? No, qui ti chiedo, volevo farvi proprio sentire l'originale. L'originale, sì. Allora sì, ascoltiamo, sì, l'originale. Ok. Chi è che ti accompagna in questa voce, in questa canzone? Maurizio, apri il microfono, Maurizio, apri il microfono. Ecco. È Alessandro Pappalardo. Ah, ecco. Che fa finta di niente adesso. Ah, canta lui praticamente qua sotto. Ma adesso sentiamo la versione. Sentiamo vostra, la versione, sì. Con... Questa è una canzone che io cantavo con il quartetto Alter Ego, di cui fa parte, di cui è a capo la Betty, anche qui presente, che è qui presente, e avendo la voce maschile, lei l'aveva riarrangiata per quattro voci femminili, io l'ho riproposta invece in originale, avendo appunto la voce maschile di Ale, che si poteva ben sfruttare oltre che come voce narrante. Dalla bisodie liberanos amados. SMS 346 2320 033. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hai visto Saba? È già passata un'ora. Purtroppo sì, mi hai visto? Ho visto che stai sorridendo. Maurizio si sta facendo sciogliere sempre di più l'instadio, eh. Sì, io sono proprio io dico sempre nella fossa dei leoni. Ma è bello stasera, i leoni, dal punto di vista musicale, tutti i leoni, certo, perché la musica porta ad emozioni, a sensazioni bellissime, secondo me, proprio dentro con i musicisti. Il regista è un po' diverso, il regista è al di là del vetro, ha un'altra sensazione, ma io che sono qua assieme a voi, una sensazione come la vostra sensazione. Io è la stessa cosa, non suono, però come partecipassi anch'io in questo momento. Ah sì. No, quasi quasi volevo anch'io mandare un SMS a Blu Radio dicendo tanti complimenti per la trasmissione, e poi come mi potevo firmare? Anonimo. Anonimo. Anonimo. Grazie Sergio. Allora, Blu Radio Veneto, appunto, questa è la vostra emittente, e siete sintonizzati in questa serata, come avete capito, insomma, dedicata alla musica sacra con Saba De Rossi e la sua band, che sono praticamente amici, a quanto abbiamo capito, soprattutto per te, Saba, giusto? Sono grandi amici, sì. Insomma, oltre che di rapporto, di lavoro, insomma. Con alcuni litigo anche spesso. Vabbè, se non c'è... con lei. Con la Betty, litighi con la Betty qualche volta. Ma per Betty? No, con Betty no. Betty, no. Ho perso le speranze. Ah, hai perso la speranza. Non c'è verso. Non c'è verso. Mi sono arresa all'evidenza, ha ragione lei e basta. Basta. Mi adeguo. Per adesso è fotografo, quindi ha sempre ragione. Esatto. Ricordiamo il pianoforte alla tastiera, insomma, Sergio Buson, la chitarra acustica che fra poco arriverà, ci sarà Alessandro Mondenese, le percussioni Paolo Videsch, E percussioni e voce, che però stasera fa un po' lo scansafatiche, c'è Alessandro Pappalardo. Poi sai che io, prima del concerto di Limena provavamo così, ho voluto un po' cambiare i inizialmente facevamo delle presentazioni vere e proprie. Don Marco mi aveva aiutato un po' attraverso la storia dei brani, un po' ecco, nella spiegazione magari del Glorio, del Kiri, eccetera. Poi però ho voluto rendere la cosa un po' più mia. Quando ho capito che questa cosa poteva funzionare, ho scritto di mio pugno due parti fondamentali, insomma, del concerto. Quando ho spiegato ad Alessandro, qui presente, la prima parte, che come volevo che lui la leggesse, a un certo punto mi guarda e mi fa: ma perché non la leggi tu? E che ho detto, ma scusa, e cosa ti ho chiamato a fare? Fai la voce narrante, no? Infatti la leggo io. Ah, ecco. Ma fammi capire una cosa, Saba. Questo narratore, cos'è che narra durante questo concerto, pratica? Cioè, spiega le canzoni o... Allora, Incanto nasce, no, da un gioco di parole. Incanto. Narra il mio percorso di fede, solo che è una cosa che non ho mai realmente esplicitato. Ecco perché io volevo che lo leggesse qualcun altro. Certo. È stato il mio cammino come... Non mi piace dire come cristiana, sono una delle tante che cerca di avere fede, che cerca la fede, a volte la perdo, a volte la trovo, a volte sono un po' confusa. E quindi ho voluto un po' mettere, anche se in alcuni brani non lega molto, però questo è il mio percorso, questi sono i brani che a me piacciono e che mi hanno portato a creare questo concerto. Quindi la prima parte del concerto è volta più c'è il paternoster, per cui la presenza e la necessità che io ho avuto in alcuni momenti della mia vita di avvicinarmi, di appoggiarmi, di affidarmi completamente a Dio. E poi la seconda parte invece riguarda più anche da scaletta proprio, ci sono 4 o 5 brani volutamente messi vicini che parlano insomma di Maria. Ecco, e qui è un momento molto particolare della mia vita dove ho messo in crisi il buon Alessandro che poi mi ha detto: perché non leggi tu anche questo? No, quello leggo io. Parla vicino al microfono, Alessandro. Dai, vai vicino al microfono, Alessandro. Non è vero, la parte su Maria la leggo io, sennò cosa ci sta a fare? Cioè. Ma tu leggi solamente le parti o anche canti? No, io canto su 3 pezzi, su Salve Regina, sul Paternoster e su un altro, aspetta, cos'era? Gloria. Sì. Non te lo ricordi neanche più. Sì, no, è che non ho la scaletta, non ho la scaletta sotto mano. Devo leggere la scaletta. Non posso ricordarmi a memoria. Non mi ricordo neanche cosa ho mangiato oggi a mezzogiorno. Non cambierà mai, Saba. No. Non cambierà. Anche con lui ho perso le speranze. Ma si arrabbia tantissimo con me. Sì. Ma forse perché ci tiene, ma non so. Si arrabbia veramente tanto. A volte ho paura anche. Ho paura anche a rispondere al telefono quando mi chiama. Ecco perché non risponde al telefono, adesso ho capito. Una volta pensavo che fosse il telefono rotto. Poi mi dice sempre che ha un impegno o che... Devo entrare in doccia. Anche l'altra sera, dopo che l'ho investito, mi ha detto: ok, va bene, ciao, vado in doccia. Mi sa che l'ho tramortito. Va bene, io voglio sempre restare in tema emozioni e voglio sentirti. Cosa ci proponi adesso? Cosa proponiamo, maestro? Io attendo con grande pazienza che arriva il buon modenese, perché vuole suonare tutti i brani e poi alla fine però insomma non arriva. Quindi dobbiamo iniziare a fare la parte, ma io tenterei... Se vuoi saltare la parte e fare un'altra canzone, per me va bene lo stesso, per noi insomma. Cioè, se vuoi saltare quella parte che tu dicevi che segui il percorso, se vuoi saltare, vai pure. No, non stiamo neanche seguendo. Ah, ecco, okay. Potremmo provare il Cantico delle Creature. Ottimo. Facciamo il Cantico delle Creature, anzi fate il Cantico delle Creature. È stato riproposto un po' di tempo, qualche anno fa, nel 2002 mi pare, da... da Branduardi in Infinitamente piccolo, chiaramente dedicato a San Francesco. Adesso lo sentiamo nella versione della Saba. Sei pronta, Saba? No. No. Il tempo che si prepara. Facciamo talmente tanto questo concerto che ho dimenticato dove ho messo la parte. Ecco. Sei pronta? Ecco. L'hai trovato adesso? Sono ok, ben arrivato. Buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di t'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo le hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Signore, per sorella nostra acqua, e lei casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te buon Signore avran corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà mai. Brava, Saba, brava. Grazie. È arrivato anche Alessandro adesso, quindi. Mi sembra di conoscere questa pagina. Dobbiamo dire una cosa. Tu hai fatto una frequentazione branduardiana un po' di anni fa come corista. Adesso me la racconti. Adesso devo dire la verità, perché poi tante volte le cose vengono abbastanza traviate. Loro, con Don Paolo Spoladore, non ricordo l'anno, siamo stati a Roma allo Stadio Olimpico per cantare l'inno della festa dei giovani in Italia. Uh-huh. E Don Paolo appunto aveva vinto il concorso per cantare questo brano. Il brano era E chissà. E chissà. Quindi eravamo su questa curva dello Stadio Olimpico a guardare 36.000 persone che si agitavano, 36.000 ragazzi. È stata una gran bella emozione. E la sera c'è stato un mega concerto tenuto per la maggior parte da Angelo Baronduardi, che ha catalizzato un'intera generazione. Io vedevo quindicenni che saltavano guardando questo grande, sì, lui proprio si è goduto tutta la serata, ha fatto il suo, però ha messo in piedi, ha tirato in piedi 36.000 persone. Durante la giornata poi si sono alternati altri grandi cantanti, c'era Spagna, c'era Gatto Panceri, Massimo Di Cataldo, quindi le bambine si strappavano i capelli. All'epoca sì, adesso però, un po' meno. Adesso ormai mi spiace per Massimo Di Cataldo, ma è decisamente fuori dal giro, ecco, possiamo dire questo. Mentre Baronduardi è rimasto, sì, anche con delle manifestazioni musicali diverse, dal folk è passato un po' a delle ricerche, recentemente ha fatto un EP che è uscito l'anno scorso, qui ha recitato anche, ha ripreso pezzi dei Pogues, un pezzo natalizio dei Pogues, Elvis Costello ed altre cose, sempre con i testi di sua moglie Luisa Zappa Baronduardi, che è molto molto brava a tradurre, ha tradotto anche alla Fiera dell'Est, tra parentesi, perché ha ripreso un pezzo, era antico, un pezzo ebraico praticamente, lui l'ha ripreso, lui ha cercato, anche lui era un ricercatore, certi pezzi erano folk e poi ha ripreso e lui ha rimodellato in versione italiana praticamente. Lui ha una voce che a me piace moltissimo perché non ha alcuna particolarità, ma forse proprio per questo riesce a dare talmente tanta enfasi nel suo cantato che alcune sue canzoni, questa forse in modo particolare, ma perché la direttrice del mio quartetto mi soffiava sul collo quando l'abbiamo imparata, quindi non sono riuscita a trovare un modo diverso per cantarla. E mi piace cantarla così. Certo, certo. Gli accenti che lui dà, cioè alcune canzoni devono restare così come sono state scritte. Certo, certo. Fa un certo effetto, volevo aggiungere solo due parole, sentire questa canzone cantata da una donna. Sì, io l'ho sempre sentita cantata da Baronduardi. No, a parte Baronduardi, che, voglio dire, però da maschietti. Insomma. Sì, da maschietti, il pezzo è assolutamente maschile, però non è vero, assolutamente non è vero. Abbiamo la proposta proprio stasera. Salutiamo Alessandro che ci è venuto a trovare anche lui. Ciao Ale. Ciao a tutti. Si sta provando la chitarra. Provando. Ma mi sembra di conoscerlo. Qualche volta sei venuto qua a trovarci. Ma un po' di volta. E credo sia uno dei più bravi chitarristi di Padova. Sì, sì, e non solo. Insomma. Del poi Veneto, non di Padova. Ma sai che sta andando oltre il Veneto, perché adesso sta avendo collaborazioni, anche ho avuto già con una di Roma, poi avrà una con una cantante di Varese. E insomma, ne ha di collaborazioni. Lo stiamo perdendo? No, lui resta sempre fedele qui. A... Avevamo chiamato i chitarristi migliori, ma non potevano. Ecco, sì. vabbè. Allora, adesso sei ancora più tranquilla, sei ancora più serena, sei ancora più contenta, Saba, perché sì, finalmente... adesso possiamo entrare nel vivo ufficialmente. Vogliamo entrare subito? Alessandro, tu sei già pronto? Sì, sì, scusate il ritardo, ma sono a part-time. No, vabbè, ma insomma, oggi è una serata dedicata anche alle celebrazioni eucaristiche, certo. Quindi insomma il Giovedì Santo si ricorda sia l'istituzione dell'Eucaristia e anche del Ministero del Sacerdozio e anche la consegna ai discepoli del comandamento dell'amore, quindi è una giornata un po' particolare e ovviamente questi grandi musicisti sono chiamati anche dalle rispettive parrocchie per suonare, per fare queste celebrazioni. Adesso Saba, cosa ci fai sentire? Adesso volevamo proporvi uno dei tre brani in cui si è creata L'alchimia, questo è il secondo, dal titolo Symbolum 77 che bellissimo, abbiamo stracantato tutti, o almeno insomma la mia generazione. Tutti. Ti confesso che quando... Mi veniva un po' l'ansia di proporre questa canzone perché l'abbiamo cantata talmente tanto che non ne potevo più. Però siamo riusciti, grazie alle menti che ci sono qua dentro, a trovare una chiave nuova per riproporre questo brano. Dobbiamo dire l'origine del pezzo, è un pezzo del 2006 scritto da un sacerdote, Don Sequeri, un sacerdote lombardo, si chiama Symbolum 77 perché, scusate, del 77, è stato riproposto, l'originale del 77, si chiama Symbolum 77 perché è del 1977, però l'idea, perché ho citato il 2007, perché Don Sequeri l'ha detto che il pezzo l'ha scritto nel 77 con un articolo dell'Avvenire del 2007, questo l'ha rivelato al pubblico, questo è il motivo. Quindi 30 anni dopo, insomma. Esattamente, però è stato scritto nel 1977, è un pezzo che famosissimo nella messa si canta assolutamente sempre. Ti confesso, Saba, che quando mi hai mandato le tracce, questa è stata la prima canzone che ho ascoltato, perché è talmente famosa, talmente bella, che volevo sentire veramente come l'avevi fatta, insomma. Adesso ce la rifai dal vivo, quindi. Ma in realtà poi alla fine io non ho fatto niente, io avevo un po' il dubbio su questo brano, poi i tre maestri qui sono venuti fuori con l'idea e trasformata la canzone. E la sentiamo. Blu Radio Sera. Ecco sì, una cosa bellissima. Una curiosità, non so se lo sapete, lo sapevi Sara, Saba, perdon, se non sanno gli altri, questo pezzo è stato anche cantato dai Timoria. Sì. Lo sapevi, benissimo. Scoperta. In un album si chiama Un Aldo qualunque sul treno magico. È stato riproposto da Timoria, da Omer Pedrini e la sua band, chiaramente, su questo disco. E hanno voluto, riproporlo nella loro versione, nel loro modo di fare. Nella loro versione. Bene, pezzo bellissimo che, ripeto, si sente sempre in tutte le messe, chiaramente. Ottimo. È uno dei pezzi. È un pezzo del 77, non un pezzo vecchio, un pezzo recentissimo. È una delle canzoni che si sente, sì, spessissimo, sempre, qualsiasi diocesi che tu hai, insomma, certo. È una delle canzoni che anche qualsiasi chiesa, insomma, la senti spesso nei vari, sì, canti. Adesso forse un po' si è persa, come molti altri brani che però io avrei anche un po' l'intenzione di riscoprire, proprio per il fatto che alcune canzoni, tipo È giunta l'ora, sì, che è stata abbastanza voluta come scelta, certo. Sono le classiche canzoni che io da bambina sentivo cantare alle nonnine, alle messe, certo, alle prime messe della mattina, no? Quindi con questi trascinati vocali, queste voci tutte mezze assonnate, e vengono stravolte le canzoni in questo modo. E questo è un modo per riportarle. Ci è seduto. Alla luce. Si sta sistemando sempre. È giusto, Alessandro, è giusto, si deve sistemare. È ben messo fisicamente, quindi si deve sistemare in una certa maniera. È arrivato tutto trafelato, insomma, comunque ce l'abbiamo qui ancora per un'ora. Sono le 22:21, oggi è giovedì 5 aprile 2012, data storica penso per tante emittenti, perché credo che pochissime, insomma, facciano quest'ora, questo tipo di trasmissione con la musica sacra cantata da Saba De Rossi e suonata dalla sua band, che sono, vi ricordo, c'è Paolo Vidaic alle percussioni, c'è Alessandro Modenese alla chitarra acustica, Alessandro Pappalardo percussioni e voce, e infine c'è Sergio Buson al pianoforte o tastiera, insomma. Questa è la, e tra l'altro è anche la formazione proprio base, insomma. Voi vi presentate sul palco in questa veste, quindi sì, Sentirvi qui e sentirvi in chiesa è la stessa identica cosa. Manca solo il riverbero della chiesa. Vabbè, ma quello... Quindi qui è meglio. Qui c'è il riverbero della radio. Qui c'è il riverbero della radio. Ma non so se sia così importante per un cantante il riverbero. C'è chi lo ama tantissimo, chi invece no. Ma credo nella giusta misura. Io ho abusato del riverbero, adesso invece tenderei a... Dimmi. Vai. Scusate, no, tu continua. Tenderei a cantare con voce molto più pulita, molto più chiara e asciutta possibile. Che è la più limpida, perché, insomma, Negli anni finalmente ho imparato anche qualcosina come tecnica vocale. E quindi, ecco, diciamo, credo che il riverbero nasconde tante piccole cose. Certo. Appunto, credo che nella bellezza della voce stia proprio la purezza, insomma, senza l'ausilio di tanti strumenti extra, insomma. Sicuramente. Allora, c'è una comunicazione di servizio? Ah, va bene, ok. Ok, così facciamo, hai capito cosa? Benissimo. Va bene, volevamo far riposare la Saba. Sì, facciamo riposare la Saba un secondo. Un secondo. Per il tempo, per il pezzo. Facciamo ascoltare Salve Regina? Sì. Cosa ci puoi dire di questa canzone? Ma Salve Regina è un altro dei brani che vengono riproposti nel Musica Cieli cantato da Tosca. Da Tosca, sempre. A me è ammaliato per la vocalità di Tosca, per la facilità con cui l'ha cantato, che io ho voluto riproporre. Chiaramente. E poi è un canto dedicato a Maria, quindi abbiamo... È la seconda parte del concerto. La seconda parte. E l'ascoltiamo, e così ti riposi un pochino. Grazie. A te clamo. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Veneto. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sto facendo letteralmente impazzire la nostra fotografa, però c'è il feeling, ci sono gli strumenti che vanno e vengono, e purtroppo è così stasera. Mi devo scusare con la Betty, però il discorso è questo. Allora, siamo veramente in stato confusionale, si può dire, no, perché, perché confusionale bello, musicale, sì, non certo, è confusionale, certo. Confusionale è bello così. Giovedì Santo con la musica di Saba De Rossi e la sua band, che ci riserva ancora un'ora di grandi pezzi, di grandi momenti, di momenti emozionanti. Saba, cosa hai studiato per questa ultima ora? Il meglio, appunto, di solito le cose più belle... Io ho la voglia di sentirti su una canzone che vediamo quando la farai. Quale sarebbe? Quella famosa, quell'ave, ce la fai? Ah. La farai quella? Sì. Ecco, vedi. Quella mi piace tanto. Poi tu hai detto una frase molto bella che devo riportare. Vorrei dire che chi ascolta si lasciasse trasportare verso nuovi orizzonti. Prima hai appena intravisto questo discorso, adesso lo possiamo... allargare, perché mi pare giusto, sono le 22:29, e allora è proprio ideale per allargare questo disco, perché vorrei diventare durante Incanto l'espressione musicale e vocale di tanti mondi, di tante culture, di tante religioni, così, no? Guarda, la caratteristica che mi hanno sempre riconosciuto è che so arrivare quando, dove vuoi, dove voglio, allora so in alcune canzoni in modo particolare, ma proprio per il fatto che io le vivo molto intensamente, so arrivare al cuore. In tantissimi concerti, da a partire da Don Paolo o con i Summertime o in tante altre situazioni, i complimenti che ricevo, che ho ricevuto, che ricevo, grazie a Dio ancora li ricevo, questo è buono, mi dicono mi hai fatto commuovere. Anche la settimana scorsa, nonostante io avessi grossi dubbi, e il maestro modenese lo può confermare, in questo confronto Mina Battisti dove io una mia curiosità, che pezzi strani di Battisti hai fatto? Cantati da Mina praticamente. Abbiamo riproposto Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Difficilissimo. E Io vivrò senza te. Ecco, un altro pezzo. Che è stato tosto. Il gran finale. Un altro pezzo tosto, sì. Ancora adesso ricevo messaggi con... Perfetto. Quindi hai fatto una bella presa di posizione, perché cantare Mina e Battisti non è una cosa semplice. No. È molto complicato. Direi soprattutto Mina. Sì, chiaramente. Nel mio caso, insomma, nostra formazione abbiamo fatto Mina e Mina che canta, certo, Battisti. Però i pezzi che Battisti ha scritto per Mina non erano pezzi semplici, no. Li ha scritti per Mina, no. È quello importante, sulla vocalità di Mina, solo Mina poteva però cantare. Veramente in questi due brani qui io ho capito che o davo il 100% e anche di più, oppure non valeva il gioco, certo. E quindi ho giocato, è andata, ecco. È andata anche qua. Sicuramente la perfezione non l'ho raggiunta, però mi si è presentata gente con le lacrime agli occhi. Certo. E questa è una gran bella... Vuol dire che la cosa ha colpito al cuore. Sì, sì. Questo è importante. Ecco, e quindi il sunto di quello qua, che la giornalista ha voluto scrivere in quella frase è che a me piace proporre qualcosa con persone con cui lavoro bene e cantare pezzi e proporre situazioni nelle quali io so che posso dare quello che so. Dare. Sì. Chiaro, capito, sì. E il percorrere, perché c'erano ancora all'inizio quella frase del sì. Tu hai citato gli orizzonti, non mi ricordo più cosa hai scritto. Dunque vorrei che chi ascolta si lasciasse trasportare verso nuovi orizzonti, abbandonando la realtà fisica del momento per viaggiare con la fantasia. Perché a me capita cantando, e questo è un grosso problema che il chitarrista qui mi fa spesso notare, no, è distratto. Cioè, come dice lui a me spesso, c'è il criceto che è in pausa. Dimmi allora, scusate. Mi succede spesso e secondo me è una gran cosa. In un cantante io lo riconosco che è una grande qualità. Ho difficoltà a ricordarmi i testi, perché quando canto o ho il testo completamente memorizzato, e questo capita praticamente mai, infatti. C'è il supporto. Anche qui stasera. No, il gobo elettronico. Sì, ma perché è stata una necessità. Sì. Devo andare da un'altra parte, io devo disattivare la testa quando canto, se no non funziona il gioco. È così, adesso lui fa tutta la sua scena, però la realtà è questa. Poi devi vedere lui quando mi accompagna che facce fa, però. È di poche parole stasera, Alessandro. Però. È emozionato. Sto ascoltando la maestra Saba De Rossi, l'artista. Dicevo che anche alle feste di compleanno. Parla vicino al microfono. Alle feste di compleanno prende il leggio e canta tanti auguri. Quindi tanto non ci credo. Neanche quel testo lì. È cattivo adesso. No, la capacità veramente di dimenticare un testo che canto anche da 20 anni. Capita. Infatti mi va sempre meglio in inglese, perché così perché riesco sempre un po' a rimediare. Poi capita sempre madrelingua, però, che mi dice: ma cos'è che hai detto in quel momento? Ale, tu che sei un veterano, insomma, che difficoltà trovi a suonare per Saba? O è tutto facile, tutto semplice? Beh, la sua estensione vocale la porta che i musicisti devono un po' sempre dannarsi per tirare su tutte le tonalità, perché Saba, se non canta a canna, come si dice in gergo, non è contenta. Quindi musicalmente lei è fatta così. Però è il suo modo poi di metterci tutto, insomma. Quindi noi siamo pronti, vero? Vorrei che foste testimoni di questo complimento. Perché l'abbiamo registrato, poi lo metteremo sono in podcast. 22:34, okay. Tutto in diretta. Okay. È anche Pasqua, voglio dire. Cioè, bisogna essere buoni. Vabbè, ho capito il senso. C'era, se posso, un piccolo aneddoto. Mi agganciavo al discorso della memoria di prima, per dire che per esempio uno dei più noti complessi del mondo nel 1957 si chiamava ancora Quarrymen ed era capitanato da un certo John Lennon, il quale ha conosciuto Paul McCartney e lo ha assunto nel complesso non soltanto per la bravura, ma perché Paul McCartney era uno che si ricordava tutti i testi a memoria, al contrario degli altri componenti, Lennon stesso, insomma, che li dimenticava sempre. Giusto per agganciarmi prima... Quindi è normale, insomma. Sì, sì. Il maestro Sergio ha citato una cosa una verissima, una verità sacrosanta. Beh, d'altronde tutti quanti conoscono Venditti che canta con le Gio davanti e pure sbaglia sempre. Sì. Questo non lo sapevo. Ogni tanto si scopre sempre qualcosa di nuovo. Va bene, grazie dell'informazione, Sergio. Allora, adesso Saba, adesso che sei più serena ancora di più, perché sì, come sì, ripetiamo, è arrivato Alessandro. Cosa ci fai ascoltare? Adesso vi riproponiamo di nuovo l'ultimo brano, poi veramente entriamo nel vivo del concerto. Una canzone meglio conosciuta qui in Italia come Resta qui con noi, che noi invece canteremo in versione originale, in inglese, come è stata proposta nel 94 alla Giornata Mondiale della Gioventù. E si intitola Stay With Us, O Lord. Shadows, they are falling, hear the evening calling. The mountains, they call out of me, and the whisper of your voice I hear. The melody of eternity, I feel your holy presence with me. A new beginning, a troubled past is ending, as we walk toward this new day, you and I. Stay with us, O Lord, the day is nearly gone. Stay with us, O Lord, the night will never come. Your presence flow around me in the sea of you give me, and it's hard to just imagine what my life was like before you came and brought the company of my soul. And what was broken, Lord, you had not surprised with blinded by your light as we walk toward this new day. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera, come una terra che nell'arsura chiede l'acqua ad un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. come sentite in inglese? Brava Saba, veramente. Si sente che Saba ha fatto il musical, eh? Si sente la grinta del musical, e la grinta della musica soul, si sente fortissimo, almeno all'inizio. Poi no, ma in questo pezzo iniziale aveva proprio la grinta della musica soul, si può fare. Diciamo che... Musica nera, dai, facciamo così. I primi pezzi erano quelli di Aretha, per cui... Esattamente, quindi... Ti ricordi quella qualcosa di Jesus Christ Superstar? Lo sapevo io che arrivava, Agostino arrivava questo. È uno dei, è il musical che preferisco in assoluto. Quindi. Eccolo. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And we walk this with you, walk away. And down and I, you do pray. Coming down, everything's alright. Yes, everything's fine. Everything's alright. Bravissima. Maria Maddalena. Maria Maddalena. Che bella, che bella questa cosa. Mi manca molto, Gigi. Mi manca molto. Guarda, io ce l'ho qui, eccola, vedi? Poi, ho tutte e due le versioni e in più anche il film. E quella del film. E poi alla fine preferisco sempre quello, comunque. Beh, insomma, il film. Amavo molto di più Ted Neely. Che ancora... Sai che Carl Anderson invece non c'è più, vero? Ci ha lasciato. Sì. Tra l'altro... in modo veramente anonimo, non l'ha saputo nessuno, non sapeva nessuno. Io ho visto un articolino piccolissimo sul giornale qualche anno fa. Come sempre spesso capita. E vabbè, insomma, dopo questo... Poi c'era Vittorio che quando... questa cosa io non ho confidenza con il teatro, non so recitare, anzi sono abbastanza pessima, infatti qui... Tutti si prestano per ricordarmi quanto pessima sono. Di solito Alessandro mi dice basta che canti. Non si smentisce mai, insomma. Vittorio si entrava talmente tanto dentro la parte di Giuda e di conseguenza automaticamente in quella di Carl Anderson, proprio nelle stesse movenze, le stesse cose. Io avrò visto il film un milione di volte prima del musical. Io avevo paura di Vittorio in quei momenti. Io indietreggiavo veramente, perché avevo davvero paura. Mi nascondevo dietro a Gesù, che era invece un omone. E poi mi dicevano, che bella quella scena, sembravi veramente impaurita. No, veramente, mi avevo paura. Ma se te lo chiedessero di nuovo, lo rifaresti? Sì. Ti manca proprio. Immediatamente, insomma. Sì. Proverò a sentire qualcuno. Magari studierei un po' teatro. Beh, perché non recitavi bene, dicevi. A parte che Maddalena ha una parte abbastanza marginale, per cui... Sì, adesso penso che riuscirei a cantare il pezzo che identifica la Maddalena in modo molto più... Qual è stato il momento più difficile del musical per te come Maria Maddalena, come cantante parlo? Il momento che lei gli dice che non sa come amarlo? Sì. Sì, perché è molto difficile interpretare una donna che ama... rappresentare il sentimento di combattuto che prova lei in quel momento è tanto difficile, cantando. Senti, la senti? Infierisce. Vai. Non credo che ricorderò il non testo. Basta un po'. I don't know how to love him. I don't know where he moves me. I've been changed. He has really changed. In his past few days, when I see you again, in water from the love. Basta. Gli manca. Potevi andare avanti. Il ritornello così. Basta. Ti ha troncato il ritornello. Com'è che faceva il ritornello accanto alla cappella? Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak of love when I'm feeling? I never thought I'd come to this. What's it all about? Ah, che pelle d'oca. Che ben. Ce lo facciamo un Jesus Christ Superstar? Il testo se lo ricorda. Sì. Sì, se lo ricorda, se lo ricorda. Quasi tutto. Saba, ce lo facciamo un Jesus Christ Superstar una sera, una trasmissione, solo di musical? Ti inviti un cantante? Sì, lo facciamo. Quando vuoi. Lo studiamo più bene, guarda, è un invito ufficiale, sì, lo sentono tutti. Immediatamente, anche domani. No, Alessandro, domani tu ci no, sei, e mi hai già detto di sì, e beh, Paolo non c'è problema, sì, sì. Sergio? Ok, anche Sergio. Ok, ha dato... Ok, anche Sergio. Questo quindi... è un regalo che ti chiedo perché io lo amo veramente tantissimo. Questo musical fa parte della mia infanzia, della mia vita, insomma, proprio. Tu pensa che io avevo una mia sorella, no? È sempre stata più avanti su certe cose di me. C'era questa videocassetta a casa da circa 10 anni, di quelle, sai, che si compra, sì, con i giorni. Non riuscivo a guardarlo. È scattata questa cosa, ho dovuto andare a prendere il DVD. Sì. E ancora adesso mi additta, ah, tu che non volevi mai guardare, adesso magari invece... ti stai ascoltando anche, magari. Sì, sicuramente sì. La salutiamo, si chiama? Ciao, Genziana. Genziana, ciao Genziana. Adesso invece la sorella di Genziana cosa ci fa sentire? La sorella di Genziana ci fa sentire, direi... A me piacerebbe molto il Sanctus. Facciamo Sanctus. Che è uno dei brani di Antonella Ruggero, di Sacra Armonia. Esatto, che è stato scritta da Maurizio Colonna, che è uno dei più grossi chitarristi italiani, e da una musicista, da una pianista sempre lombarda, mi pare. Un pezzo molto bello, è un pezzo però, non è un pezzo classico, è un pezzo scritto abbastanza recentemente, come datazione. Ok. Oh, Sanctus Dominus Dei. Ale, continua, continua. Vorrei che chi ascolta si lasciasse trasportare verso nuovi orizzonti, abbandonando la realtà fisica del momento per viaggiare con la fantasia. Vorrei diventare, durante incanto, l'espressione musicale e vocale di tanti mondi, di tante religioni e di tanti paesi, perché la musica non ha confini. Il mio desiderio, quando ho iniziato a pensare a questo concerto, e che attraverso la mia voce il pubblico potesse intraprendere un cammino emotivo e spirituale. Saba De Rossi. Sono le tue parole queste, eh? Ti stai commuovendo? Wow. Un po'. È tutta la sera che siamo in questo vortice. Siamo un po' sul filo. Sul filo. Allora, già 2 ore, Saba, hai visto? Avevi paura? Sta volando. Infatti adesso abbiamo ancora un sacco di brani da fare, quale faccio? Fai subito uno, dai, falle subito un altro, visto che sei calda, così ti... No, solo sottolineare questo, abbiamo parlato prima di Maurizio Colon, l'altra autrice citata prima è Luciana Bigazzi, che è una compositrice e una pianista. È un po' New Age, secondo me, questo pezzo, un po' world music all'inizio, poi chiaramente Saba ne dà una colorazione differente. Però forse la Ruggero l'ha data, ha dato una colorazione un po' world music, a mio parere, non so se sei d'accordo. Non ne ho assolutamente idea. Non mi sono minimamente... Io la penso così. Amo da morire questa canzone proprio per... L'intro fantastico. Poi c'è stato un arpeggio delizioso del maestro Alessandro, poi un corollario con la tastiera di maestro Sergio, e il maestro, come ti chiami? Paolo. Ha dato l'input finale giustamente con le percussioni appena accennate, perché doveva essere così. Questo era l'insieme. Alessandro l'altro stava giustamente, voleva dire qualcosa anche lui, però non ha detto nulla. L'atmosfera non è stata rotta minimamente. Sono le 22:56 in questo preciso momento, quindi Sanctus è andato avanti, è andato via per l'etere, secondo me. Emozionantissimo poi. Saba, cosa ci fai adesso? Sto cercando... Di riprenderti, sì. Ma ci sono dei brani... È un ricordo, è una cosa che non vorrei... Che non volevo dire qui, ma è un ricordo non che mi obbligata, riporta... Non sei obbligata, No, però ormai devo dirla tutta, perché così almeno non crollo, devo reggere fino alla fine. È stato un momento un po' triste per me l'ultimo concerto che abbiamo fatto, perché ho dedicato una canzone a papà che non poteva essere presente e che poi a fine anno ci ha lasciato, quindi quando canto queste cose ti emoziona e ti ricordi di lui. Sì, perché lui era orgogliosissimo di questa, certo, cosa, era emozionato ogni volta che vedeva che veniva a vedermi, e la mia gioia è essere riuscita a fargli sentire tutto il concerto, e quindi è in modo particolare, insomma, alcune canzoni che so che a lui piacevano in modo particolare mi mettono in difficoltà. Vedi tu, insomma, non sei obbligata, voglio dire. Insomma. No, assolutamente. Poi è quando c'è tutta l'emozione vale ancora di più. Certo. Questo sono pienamente d'accordo io. Cosa vuoi fare adesso? Ci fai... Adesso lui mi sta odiando, ma in effetti c'ha anche ragione. Il bello della diretta è questo. Sì, cantiamo una canzone che so che a Paolo Videc piace tantissimo, è un altro dei brani tratti da Musica Celi di Tosca. E si intitola Mater Jubilei. Lei ha cantato questa canzone di fronte a Giovanni Paolo, e ha un'intensità molto particolare, molto bella. Ok, ma potete partire subito. Sì, sì, puoi partire Paolo. Quae nocte omnes penimus circumspicio una, omnes expectant certe aliquis veniet, cur expectetis mi dicite Mater Mille. bellissima. Io voglio però capire il suono che ha fatto Paolo graffiando il tamburo. Adesso me lo rifai un secondo perché è molto interessante. Molto bello. Cosa dice Agostino? Dà un certo senso alle cose. Quello... Beh, ma Paolo, sei uno dei, posso dirlo, mostri sacri come percussionisti. Tutti ti vogliono, Sei ricercato. No, è vero Paolo, ti conosco da molto tempo ormai, lo sai, e hai sempre ricevuto tantissimi complimenti per quello che fai, perché sei veramente bravo. Poi insomma, sei, è da una vita che sei in Samantha, e tutti ti cercano sempre in ogni concerto, anche Luca Francioso, ne hai di gente che ti chiama, insomma, quindi grazie, sei bravissimo. Poi ti conosco, insomma, ormai so il tuo valore, insomma, anche se non è mai abbastanza detto da me, insomma. Allora, mezz'ora secca, abbiamo mezz'ora secca, 23.01. Chiacchieriamo meno e cantiamo di più, se vuoi cantare di più, sì. Sì, sì. Sì, sì. Adesso cosa ci fai allora, sentire? Adesso vi proponiamo un'Ave Maria di Gounod, che è stata riproposta da Noah. Che abbiamo invitato anche qui, che speriamo venga. E quindi a breve, insomma, riuscirete a sentire l'originale di questo brano. Intanto, umilmente vi anticipo. Io, se mi consenti, Sava, prima che tu cominci a cantare, volevo salutare la mia mamma, perché so che lei ama questa canzone. Non l'ho mai fatta, insomma, però per una volta concedermi questo giorno di Pasqua, questo giovedì santo, questa settimana che ci porta appunto a Pasqua. Lei questa canzone la ama tantissimo, so che mi sta ascoltando, perché stasera gliel'ho detto, guarda che stasera è la tua trasmissione, devi ascoltarla. Si chiama Laura e le mando un grosso saluto da tutti noi, da Blu Radio Veneto, da tutti voi e soprattutto da sottoscritto, insomma. Ciao mamma. Allora, con grande passione, perché è una delle, è il mio Ave Maria, questo è il mio Ave Maria di uno, è quello che preferisco, e quindi con tanta passione, signora Laura, le cantiamo questo Ave Maria di Gounod. Ok. Hiding, don't you know we need you? Things are looking pretty bad down here. I know that there is beauty, gentleness, and laughter. These are things you always do. Santa Maria, Maria, may I take a liberty and say that it's a shine to me, not a liberty, we're all just hoping someone will step forward singing Amen, Amen. Come on, let it away, Amen, and sing down here. I know you hear the fighting, see the torch we're lighting on a quest for peace and freedom. Help us see this through. Hey there, Maria, Santa Maria. take liberty and say that it's a shame to me not to live in harmony. We're all just hoping someone will step forward singing amen, amen. Come on, let it away, amen, and sing amen, amen, amen, amen, amen. Io non ho parole. Brava, bravissima. Sì, una cosa ci senza il testo davanti. Senza il testo davanti. È avvenuto il miracolo. C'era un silenzio, in sala, c'era nessuno, tutti ti guardavano, ti ascoltavano. Bravissima, Saba. Grazie. Sei veramente una forza della natura, insomma, sei bravissima. Queste sono le voci che ti fanno riscoprire la bellezza di certe canzoni, anche se sono sacre, ma sono sempre canzoni bellissime. Giusto? Vero. Giusto, giusto. Speriamo che mamma Laura sia rimasta contenta. Assolutamente contenta. Allora, aspetta che c'ho anche due messaggi da leggerti. Vediamo se riesco a leggerli più che altro, insomma, perché qui l'emozione è veramente... Ciao a tutti. Dopo una serata, ci voleva una serata così brava. Ricorda per poi gli appuntamenti con la buona novella. Ciao Mirko. Ah, perfetto. E poi l'altro, vediamo ancora... no, questo non c'entra. Chiedo scusa, ma siamo totalmente in diretta. Maurizio, sentanto tu vuoi. Sì, voglio solo domandare alla Sara. Alla Saba. Abbiamo sentito questo pezzo. Tanta emozione, assolutamente. Perché hai voluto inserire questo pezzo dentro la scaletta del concerto? Che non ha. Cioè, sì, un pezzo un po' riproposto dalla versione di Tosca. Perché? Perché? Secondo te? Che lo sentivi tu o lo sentivi... Questo Ave Maria di Gounod? Sì, esattamente. Perché rientrava in quello che... La seconda parte o la prima parte? La seconda parte. La seconda parte, chiaramente l'Ave Maria, quindi dedicata alla Madre di Dio. Perché l'Ave Maria di Gounod mi ha sempre coinvolto molto e questa versione che Gounod aveva proposto poteva fare al caso mio. Quindi ho combinato le due cose... grande ammirazione naturalmente per Noah, perché... Sì, no, pardon, ho citato Tosca e non c'era niente. Noah, la versione di Noah, hai ripreso la versione di Noah. Diciamo che nella scelta tra i due Ave Maria, perché... Cioè, qualche altro l'ha fatta, non fatta solamente Noah, chiaramente. Avevo pensato o Schubert o Gounod, sì. E ho preferito Gounod. No, dal punto di vista, cioè, dal punto di vista dell'interpretazione, non l'ha fatta solo Noah. Tu hai scelto quella di Noah, chiaramente. Perché quando ho letto anche la traduzione di Noah, mi ha preso molto, anche se non rispecchia quella che è sì, la fedelmente. Esatto, la preghiera. La preghiera, esatto. Mi è piaciuta molto la traduzione. E l'arrangiamento, qua c'è solo la chitarra di perché Alessandro. C'è lui. Sabati... Poi si offendeva, se non... È giusto, giusto. Ti ha dato l'input giusto, ho visto sta io. Zitto, poi t'ha osservata in... Va bene, possiamo proseguire fino alla fine. Non c'è stata nessuna interruzione. Saba, ti porto i saluti di tua sorella Tania. Ah, grazie. Ciao Tania. Finalmente ti sento dal vivo. Mi stai arrivando al cuore e ricordo quel mercoledì 28 dicembre. Ti sente. Sai da lassù e aspetta l'Ave Maria. Infatti, complimenti a tutti. Bella serata. Ecco. Ciao Tania. Cantiamo. Allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Cosa abbiamo in scaletta adesso? Secondo te, Saba? Abbiamo i pezzi forti. I pezzi forti. Io aspetto un pezzo più forte del... Secondo me è del tuo repertorio, però adesso vediamo se... Sono le 23:10, ricordo, tanto finché tu ti prepari, sì, ricordo che domani sera a quest'ora, cioè alle 23, quindi qualche minuto prima, in occasione della Settimana Santa, Blu Radio Veneto propone un ascolto guidato, diciamo, e meditato sulla buona novella di André. di Fabrizio De André. Ci sarà appunto Mirko Cavallin, il nostro direttore, e Don Andrea Guglielmi, che vi accompagneranno tra i 10 brani che compongono questo album ormai famosissimo, ultra famoso. Onestamente l'idea era un po' diversa, se ti ricordi, ma stavamo essere, però per un problema tecnico non siamo riusciti a farla, ma vi prometto lo riproporremo, perché la buona novella è un disco che si ascolterà sempre, un disco importante, secondo me importantissimo, di Fabrizio De André, un disco che quando uscì ebbe un certo delle critiche, perché proporre la storia così particolare, così importante, così fondamentale. Però Fabrizio l'ha riproposta, questa buona novella, certo. È stato un successo con il tempo, ma un successo veramente forte. Noi la riproporremo quando verrà il momento, dal vivo qua. Comunque Mirko e Don Andrea Guglielmi appunto vi faranno, leggeranno, vi proporranno dei riferimenti biblici a testi canonici, di citazioni e riflessioni a partire dalle parole poetiche appunto di questo capolavoro di Fabrizio De André. Che dire, quindi l'appuntamento è per domani sera alle 23, sempre qui a Blu Radio Veneto. Tu sei pronta adesso? Cosa ci fai ascoltare? Vi proponiamo Alessandro Pappalardo, ha deciso finalmente ha deciso di Gloria Missa Criola, tratto da Sacra Armonia, canzone che però di Ramirez, è uno spagnolo, esatto. Ramirez è l'autore, e riproposta in chiave Antonella Ruggero. Sì, certo. Però non molto diversa, insomma, da quello che è l'originale. Ok. Poi partire. Pasan los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios y en la tierra. Pasan los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te adoramos, te alabamos. Hijo del Padre. en la tierra. Pasan los hombres que aman al Señor. Pasan los hombres que aman al Señor, porque tú, santo, solo tú, Signore, porque tú, santo, solo tú, Signore, tú, solo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, incredibile. Alessandro mi ha detto una cosa, è come Antonella Ruggero in questi passaggi, c'è poco da fare, è vero? Bravissimo. Pezzo difficilissimo, sei stata bravissima. Me l'ho fatta di 30 secondi. La scaletta, ecco, vai. Perché tu, solo tu, perché tu solo altissimo Gesù Cristo. Bravissimo. Paganini non ripete, ma stavolta ha ripetuto. Okay. Ma qui non ci divertiamo tanto noi. No. Assolutamente no. Allora, quante canzoni pensi di poter fare ancora? Quante ne avresti ancora? Ah, guarda, 23, 18. Direi di concludere con le due best, il massimo, le portanti facciamo, del progetto. Facciamo una canzone e poi parliamo ancora qualche secondo e ci saluti con l'ultima canzone dal vivo. Sì. Va bene così? Cosa ci fai ascoltare adesso allora? Adesso? Adesso maestro, il maestro ha detto adesso. Adesso. Adesso il maestro sta cercando e noi... Siamo completamente in diretta, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolore con Maurizio Calzavara e stiamo concludendo questa maratona musicale dalle 21 circa alle 23.30 circa con Saba De Rossi e con la sua meravigliosa band che ci è venuta a trovare questa sera per dedicare, come ho detto un sacco di volte, insomma, la musica sacra. Sei pronta? Altre due ne hai? Sì, altre due, ce la facciamo. Ce la facciamo. Vai pure. Ok, allora teniamo l'ultima per ultima, sì. Che non si può fare diversamente. Va bene. Allora proponiamo Kyrie. Ah, bellissima, bellissima. Io sapevo che proponevi. Assolutamente. Eh sì, non potevi non proporre un pezzo. Esatto. Prego. una jam session. Ok, questo è un pezzo di origine africana, vissuto e corretto dalla band stasera. Se la fa più, se la fai, Saba. Sì, ci stai scatenando alla fine, Saba, lo vedo io. Nasceva un po' più lenta. Questa è un'altra alchimia. Sì. Ma è una cosa nuova anche per te, questa. Se vuoi la possiamo fare anche più veloce, Saba. Sì. Tutto allora, in diretta, tutto dal vivo, assolutamente. Quindi. Cosa fate? Ci fate l'ultima canzone e poi ci salutiamo? O ci salutiamo adesso? Ci salutiamo prima e poi non fanno l'ultima canzone. Cosa dici? Ma ci salutiamo adesso. Adesso, esattamente. È venuto il momento di salutarci. Avete un'ultima canzone da proporre, giusto? Saba, hai visto? È volata via. Eh sì, ma ricominciamo adesso, no? Sì, sì, sì, sì, guarda, il tempo di fare stacchetto e poi andiamo con l'inizio della seconda parte. Vorrei dire grazie a Maurizio, grazie a Agostino che avete creduto e voluto questa cosa, questo progetto qui in Radio Blu. Io sono Blu Radio, scusate. Blu Radio. Va bene, non ti preoccupare. Non grazie a Blu Radio Veneto che ci ha ospitato stasera. Grazie a Mirko che ci ha lasciato lo spazio. Esattamente, Mirko, il nostro direttore ci ha lasciato lo spazio. Grazie al direttore e ci auguriamo che questa cosa possa continuare ad andare avanti perché... Ti fai i complimenti anche lui perché me li ha scritti su una SMS. Grazie, grazie direttore. Allora, Saba, tutto è nato quella sera che ci siamo sentiti al telefono, che ti ho detto io avrei questo progetto, ti può interessare. Sì. Dico, lo facciamo la settimana di Pasqua, ti ricordi? Sì. Proponiamo la cosa e andate in porto. Adesso è già passato purtroppo, hai visto? L'attesa è stata così lunga, così ansiosa quasi da parte nostra, non solo da parte tua. Sì. Ma insomma, adesso è volata via, abbiamo fatto 2 ore e mezza di splendida musica. E siamo noi di radio che insomma che ti ringraziamo insomma di cuore di essere venuta qui questa sera con i tuoi amici, cioè con Paolo, con Alessandro, con Sergio, con Alessandro, e perché ci avete regalato veramente 2 ore e mezza splendide. E credo, come dicevo all'inizio, nessuna o pochissime radio oggi, che giovedì santo, hanno fatto questo tipo di trasmissione. Ma questo sta a dimostrare la nostra, diciamo, apertura a tutte le musiche che Blu Radio Veneto fa. Sempre, comunque, costantemente, perché questa è la ricerca degli emergenti e soprattutto chi fa veramente la bella musica e non i tanti cosiddetti big che a volte invece lasciano il tempo che trovano. Quindi grazie di cuore da parte di Blu Radio Veneto, da parte mia, con affetto Saba, lo sai che ti voglio bene. Grazie. Non voglio dire niente, lascio spazio a quest'ultima canzone che già mi sta... Ti sta già... Sta già muovendo. Allora... Ovviamente anche ad Alessandro che abbiamo aspettato, grazie a Sergio, Alessandro Pappalardo e Paolone Vidaic che con me portano avanti questo viaggio. Ti auguriamo di portarlo avanti per molto tempo. Grazie davvero. A proposito, prossimi concerti? Al momento non ce ne abbiamo, però adesso... Magari con questa trasmissione abbiamo smosso un po' le acque, chissà. Lo spero. Te lo ricordiamo. Grazie. L'appuntamento con il sottoscritto è per giovedì della settimana prossima, cambieremo completamente genere, ci sarà... butteremo sul rock puro, sì, sulla sul band... Fiume di Syd Barrett, da Syd Barrett in sì, poi. Sì, David Gilmour e un po' di tutto. Insomma, ci saranno i Pink Floyd. Esatto, ci saranno i Pink Floyd. I Pink Floyd vengono qui, sì. I Witch Matrix. Esattamente. Ma che faranno il repertorio appunto i Pink Floyd, li avremo qui in studio, in acustico, è la prima volta che provano, poi sarà insomma tutta una... Vabbè, non vi sto ad anticipare tante sorprese che ci saranno giovedì della settimana prossima, sempre qui alle 21 fino alle 22.30 con Agostino, con Maurizio e soprattutto con Blu Radio Veneto. Vi ricordo anche domani sera alle 23 l'appuntamento con la Buona Novella, questa trasmissione dedicata ai riferimenti biblici e testi canonici, appunto e citazioni che fanno sia Don Andrea Guglielmi e Mirko Cavallin per quanto riguarda questo capolavoro, questa opera di Fabrizio De André, quindi l'appuntamento dalle 23 sempre qui a Blu Radio Veneto. Adesso Saba, con cosa ci saluti? Vi salutiamo con Magnificat. Wow! Grande. Io ne approfitto per salutare Roberta e Silvia e per salutare tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato questa sera, Maurizio, che credo siano stati tantissimi. Sì, spero, sicuramente sono stati tantissimi e un augurio di buona Pasqua a tutti i nostri ascoltatori. Certo, hai fatto bene a ricordarlo che non l'avevo ancora fatto. Buona Pasqua. Anche da parte nostra. A tutti voi. Buona Pasqua. E alle vostre famiglie. Saba De Rossi e la sua band. Magnificat, anima mea, magnificat, Dominum et exultavit. Christmas in the tornare davvero presto. Tornerai. Grazie.